Il gastronauta di Davide Paolini. Buon bollito a tutti. Ebbene, avete già capito che il titolo di questa giornata sarà appunto il bollito. Il bollito, che è un piatto, non dico italiano completamente, dalle Alpi fino giù alla Sicilia, ma sicuramente in molte regioni è un piatto tradizionale molto importante, a cominciare dal Piemonte, Veneto, l'Emilia, ma anche un po' in Lombardia e poi anche in Sicilia, perché alla Vucceria, proprio all'ingresso della Vucceria, c'è un famoso locale che si chiama Dottore Urodo. Quindi sicuramente anche in altre parti d'Italia ci sono così sparse, come posso dire, dei punti fermi dove il bollito viene servito regolarmente. Bene, con questo freddo è tornato molto alla ribalta il bollito, e ci sono in molte città che il lunedì in molti ristoranti è consacrato appunto a questo grande piatto, ma ci sono scuole di pensiero diverse. E come dicevo, in più regioni appunto è un piatto che viene molto servito, e quindi ci sono delle tradizioni alle spalle. Ci sono anche diversi correnti di pensiero tra i macellari sui tagli, perché in ogni parte differenziano come, e differenziano anche i nomi dei tagli, perché l'Italia è una giungla dal punto di vista dei nomi dei tagli di carne. Ce n'è uno solo che è uguale in tutta Italia ed è il filetto, guarda caso, mentre gli altri divergono un po' ovunque. E allora oggi, come dicevo, parleremo di bollito, ma anche di quello che viene servito con il bollito, appunto con queste scuole di pensiero diverse. Numero verde 800 24 0024, messaggi 349 238 6666, e devo dire che già sul sito www.gastronauta sono arrivate diverse decine di interpretazioni da diverse parti d'Italia, quindi continuate a mandarle, poi magari le vedremo anche alla fine. Ma per iniziare appunto questo giro di bollito, cominciamo da la confraternita del bollito e della pera Madernassa. Ecco, e allora abbiamo con noi il Gran Priore Adriano Bongiovanni. Buongiorno Bongiovanni. Buongiorno a tutti. Allora voglio chiedere, cosa fa la confraternita del bollito e della pera Madernassa? Cioè, sta attenta che tutto venga così servito secondo disciplinare? Certamente, perché la confraternita del praticamente è l'inizio della storia della razza piemontese, quindi il bollito che la sua... Mi spiace Bongiovanni, ma purtroppo sentiamo malissimo, o cambiamo telefono o lei cambia posizione, io devo interromperla, perché appunto dalla regia mi fanno segno che la ricezione è veramente pessima, quindi torneremo da lei immediatamente. Allora cominciamo a parlare anche appunto, abbiamo detto, delle scuole di pensiero e dei tagli. Vedo già che c'è un radioascoltatore, un SMS che mi dice viva la Peara. Beh, la Peara è una, diciamo, di quei condimenti che viene servito proprio in Veneto, quindi poi sentiremo, perché andremo a Verona in un noto ristorante e ci faremo parlare anche della Peara. Come dicevo appunto, scuole di pensiero diverse e tagli diversi. Questo succede anche perché magari i tagli possono anche corrispondere da un posto all'altro, ma sono anche, molte volte intervengono dei detti dialettali, dei modi dialettali così di identificare dei tagli di carne. Vediamo che il nostro Bongiovanni ancora non l'abbiamo ripescato, e quindi proseguiremo e speriamo che poi magari ci raggiunga. Ora andremo magari a collegarci con qualche macellaio per farci raccontare un po' da loro i tagli. E come primo appuntamento andremo a Romanengo da Franco Cazzamali. Franco Cazzamali, buongiorno. No, niente, abbiamo ripescato Adriano Bongiovanni, neppure. Allora, dalla regia ci dicono che abbiamo ripescato Gianni Lubatti. Buongiorno a Armando Bordin, proprietario del ristorante Locanda del Castelvecchio di Verona. Stamattina è veramente una giornata molto, molto pesante dal punto di vista radiofonico, però abbiamo radioascoltatore Livio da Torino. Buongiorno Livio. Buongiorno Davide. Complimenti per la trasmissione, la seguo ogni tanto quando posso. Ci dica. Ma niente, ottima esperienza per quanto riguarda la mia famiglia sui bolliti, perché li mangiamo da sempre, e soprattutto anche perché mio suocero e mio zio sono allevatori, parliamo di Bianca del Piemonte, e quindi ci allacciamo a Carrù, ci allacciamo a quella zona, no? Voglio dire che in Piemonte i bolliti sono importantissimi, ma soprattutto, anche come diceva già lei, i tagli sono svariatissimi, proprio da paese a paese il bollito viene servito completamente in modo diverso, no? Certo, ma mi sembra che in Piemonte, ora poi se ripeschiamo Bongiovanni ci faremo raccontare, in Piemonte esistono delle regole ben fisse, mi sembra che siano 7 i pezzi, i tagli, poi ci sono, diciamo, il cotechino, c'è la coda, c'è la lonza, ci sono altri, quindi avete, diciamo, un disciplinare. C'è un disciplinare, però nelle famiglie non viene molto rispettato, certamente i ristoranti lo rispettano, come i famosissimi ristoranti di Carrù non sgarrano assolutamente, ma noi in casa... Il bollito poi si fa con il pendolino, si fa con la scaramella, i pezzi principali, e poi si va molto sul muso, sulla testina, sulla lingua. Ma scusa, ovviamente. Una cosa, ha detto pendolino? Sì, il pendolino è un pezzo molto molto bene, molto guardi, grazie, perché abbiamo Franco Cazzamali, chiediamo a Cazzamali. Buongiorno Franco, ma cos'è il pendolino? Buongiorno a tutti, ma allora, se devo essere sincero, è la prima volta che lo sento. Quindi devo essere sincero. Però il pendolino potrebbe essere un pezzettino che potrebbe essere o un pezzetto di spalla o un pezzetto di coscia, tipo lo spinaccino, quello attaccato allo scamone. Poi, ma di che regione era quel signore, scusa? Era piemontese, ma ora lanciamo questo quiz. Cos'è, sì? Il pendolino? Chi lo sapesse può intervenire, mandare un SMS. Ma Franco, io da te volevo cominciare da un fatto importante, perché iniziamo, diciamo, da come si inizia il bollito. Tu sei un sostenitore, e mi spiegherai perché, magari brevemente, poi ci torneremo, usi l'acqua minerale in luogo dell'acqua, diciamo, di rubinetto per cominciare a bollire il bollito. Certo, allora te lo spiego in 2 secondi. Allora, innanzitutto noi dobbiamo utilizzare un'acqua naturale o anche minerale con un pH inferiore a 7, ma per un fatto molto semplice, perché quando l'animale in vita ha un pH di 7, scientificamente provato, quando l'animale dopo 48 ore ha finito il rigor mortis, il pH della carne è 5,6-5,7, perciò abbiamo degli squilibri, ecco perché a volte nei brodi troviamo la schiuma. La schiuma è data o da un residuo dell'acqua o da un residuo di ciò che l'animale ha mangiato. Bene, abbiamo ripescato Adriano Bongiovanni, speriamo che questa volta la linea tenga, perché sono cadute tutte le linee all'inizio, quindi speriamo che ora abbiamo sistemato tutto. Buongiorno Bongiovanni di nuovo. Buongiorno. Allora, le chiedevo, la confraternita, diciamo, controlla che il disciplinare che vi siete dato, diciamo, di preparazione del bollito e di pezzi del bollito, quando fate le grandi cene, venga appunto effettuato, è così? Venga servito nel giusto modo. Se mi consente, io le faccio soltanto una premessa riguardo alla confraternita del bollito, perché a Guarene nel 1886 avviene una mutazione, cioè un'ipertrofia muscolare ad un vitello, che al momento, in quell'occasione, il Ministero della Sanità ne vieta la riproduzione perché lo ritiene un mostro. Invece, poi successivamente, agli inizi del 1900, a Milano, presso l'Esposizione Nazionale dei Vitelli, questo vitello di Guarene viene apprezzato per la sua qualità di carne e per la produzione di carne, che è maggiore rispetto a quello che è il vitello tradizionale. Ed è lì che noi prendiamo spunto per valorizzare quella che è la carne piemontese e il bollito, che è la sua massima espressione, e quindi noi ci proponiamo di valorizzare, di promuovere la conoscenza del bollito nelle sue varie, diciamo, nei suoi vari tagli. Principali. Ecco, arriviamo immediatamente ai tagli. Quanti sono i tagli? Allora, noi abbiamo 7 tagli, sì. I principali, che sono la scaramella, che è bianco costato di reale, la parte alta del reale della bestia. Abbiamo la punta di petto, che è un muscolo pettorale, il fiocco di punta, il cappello da prete, che è la parte superiore della scapola con i muscoli, la noce, che è un muscolo della coscia, il tenerone o brutto e buono, che è un muscolo lungo della spalla attraversato dalla cartilagine, e la culatta, che è la parte superiore della groppa tra il sottofiletto e la coscia. Bene, e lei conosce questo pendolino di cui, diciamo, questo radioascoltatore che ha chiamato ha ricordato questo taglio? Guardi, a dire la verità non lo conosco. Bene. Però bisogna anche dire che in Italia ogni pezzo sì, ha una dimensione particolare. Questo l'abbiamo già detto, ma questo è piemontese, quindi sicuramente vedo che mi scrive qualcuno, il pendolino è una tipologia di olivo, no, è una cultivar di olivo, ma è tutt'altra cosa, caro Fabio. Bene, allora rimanga con noi, perché Franco Cazzamali, che usa carne piemontese sempre, e diciamo che ha una concezione della preparazione del bollito leggermente diversa e diciamo forse anche più economica che riguarda tagli, se non erro, del quarto anteriore, quindi diciamo quelli che sono considerati meno pregiati. Allora Franco, con quanti tagli si può fare il bollito? Ma allora, il bollito si possono fare con tutti i tagli che si vogliono, però il bollito all'italiana è costituito da bianco costato, cappello prete, che poi il bianco costato è quel signore che diceva prima, la scaramella, che è la pancia. Si può fare con il cappello di prete, col muscolo, col pesce, sul milanese tanti lo fanno anche con un pezzo di scamone. Non dimentichiamoci un taglio molto nobile che pochissimi lo fanno e che so che a te piace, il taglio della costa della croce, che sarebbe la terza e la quarta vertebra partendo dall'anteriore. Poi ci sono gli ammenicoli sono la testina, c'è la lingua, la coda. E ho scoperto proprio recentemente con Raffaella che sta facendo un misto di brodo anche di bolliti con dentro un po' di coniglio, e ti dico la verità che stiamo facendo dei brodi e dei bolliti che sono magnifici. Ecco, volevo chiederti questo, un bollito per quattro persone fatto con i pezzi che tu, con i tagli che tu dicevi, quanto può costare? Ma allora calcola che mediamente siamo intorno ai 15-20 euro a testa, calcolando però che mangiano tutti i tagli, e calcoliamo che mediamente mangiano all'incirca 700-800 grammi di roba, perché sedendoci, se noi pesiamo tutto, mangiamo quel peso. Senta, buon Giovanni, diciamo, nelle cene che fate, un coperto, quanto costa con questo bollito completo anche dalle salse e da tutti i bagnetti, e quindi diciamo completo al 100% secondo la vostra tradizione? Costa 30 euro. 30 euro, quindi 30 euro a cada uno. Insomma, quindi... Noi abbiamo il 18 marzo l'incontro annuale delle confraternite a Guarene, dove il menù è a base di bollito. Naturalmente lì abbiamo delle spese che sono collaterali a quello che è il servizio del bollito, e lì la spesa di 35 euro, e diciamo che comunque il costo medio è sui 30 euro, bene, compresi i vini. Bene. E naturalmente i vini abbinati. Beh certo, possono variare da vino a vino. Vedo che mi arrivano moltissimi sms, tutte sono basate diciamo sui condimenti, perché mi arriva il Cren, mi arriva appunto la Peara, che vedo che è in testa diciamo qui alle classifiche, tutti parlano di questa Peara. Arriviamo, ne parleremo sicuramente, le mostarde, quindi sicuramente se ne parlerà, perché sono abbastanza importanti dal punto di vista così della creazione del bollito. Bene, abbiamo con noi ora, andiamo a Carrù è sicuramente uno, diciamo, è il centro italiano del bue grasso, quindi famosissimo per quanto riguarda la cucina e soprattutto anche il bollito. E andiamo all'osteria del Borgo, andiamo da Gianni Lubatti, appunto di Carrù, e gli chiediamo: Lubatti, è vero che voi 365 giorni all'anno servite bollito? Sempre, qua è obbligatorio. È obbligatorio, perché se non c'è il bollito non apriamo neanche, vede, è così. Qua la gente viene apposta per il bollito, apposta per assaggiare la carne delle nostre terre qua. Senta, cioè, ho un sms che mi dice: la mia compagna dichiara di amare il bollito ma senza grasso. Ha senso? Chiede il fidanzato. Lei cosa ne pensa? No, ma va bene anche così. Uno, perché la stragrande maggioranza mangia il bollito grasso, e se non c'è qualcuno che mangia il magro, come facciamo? Ha capito? Non ha tanto senso dire bue grasso, perché il bue grasso è grasso. Senta, voi con che cosa lo accompagnate? Perché abbiamo parlato prima di tagli, ma mi dice con che cosa lo accompagnate? Noi lo accompagniamo con le famose sette salse, sette pezzi, sette salse. Le salse sono la salsa rossa con verdure cotte, col peperoncino, il rafano puro con un filo d'olio, sale, la mostarda nostra, la mostarda tipo quella di Cremona, ma la facciamo noi, con la frutta e il senape. Poi c'è il bagnetto verde classico, il bagnetto verde fatto col prezzemolo, con capperi, acciughe, il tuorlo d'uovo, la molica di pane imbevuta nell'aceto e olio. Poi c'è la cugnà, immagino che sanno tutti cos'è, la famosa mostarda di tutti i frutti autunnali che si fa cuocere col mosto di uva. Poi c'è la composta di cipolle di Breme, noi mettiamo. Questa è molto apprezzata perché sono cipolle molto, molto morbide, molto... Quindi andate ad attingere in Lombardia, insomma, in Lomellina. Anche. Con la cipolla di Breme, quindi andate fuori. Sì, poi c'è una salsa agrodolce con una bietola rossa, un filo d'aceto e un po' di rafano. E poi c'è... quella lì sono le sette salse, ecco. Bene, rimanga con noi Lubatti, sentiamo Vito da Trieste, buongiorno Vito. Buongiorno signor Paolino, Davide, io ascolto ogni fine settimana la sua trasmissione, ho imparato tante cose, però vorrei sapere per cortesia, che mi viene una base in testa, che differenza c'è fra il bollito e il lesso, che no, sinceramente... Guardi, è un linguaggio, l'esso viene usato molto in Toscana, in Romagna, rispetto al bollito, ma si tratta della stessa cosa, anche se qualcuno vorrebbe differenziare, diciamo rifacendosi all'Artusi, tra chi parte preparando il bollito, parte preparando il brodo, quindi magari quando uno vuole ottenere un ottimo brodo e allora diciamo ci sono alcune tecniche di cottura dell'acqua oppure il bollito. E quindi l'esso molte volte è il risultato di chi punta decisamente su un ottimo brodo, però di fatto la differenza è semplicemente lessicale, ma non tanto nei contenuti poi quelli diciamo reali. Insomma, grazie a Vito da Trieste, ricordo il numero verde 800 24 00 24 e volevo rispondere ancora dove si trova questo Osteria del Borgo a Carrulo, ripeto a Raffaele che ce l'ha chiesto, ricordo il numero verde 800 24 00 24. Torno a Gianni Lubatti. Lubatti, voi di solito con quale vino lo servite, visto che siete in Piemonte? Beh, e avete grandi vini? Noi qua va di gran lunga il dolcetto nostro, però si accompagna anche molto bene con una Barbera vivace, un qualcosa di vivace, ecco, un vino non troppo alcolico, un vino leggerino. Quindi diciamo i vini più leggeri del Piemonte, insomma non si arriva mai al Barbaresco o al Barolo? Beh, il Barbaresco può anche andare bene, il Barolo mi sembra già un pochino più complicato, forse va meglio con la Selvaggina, un po' con gli stufati, un po' con gli arrosti, ecco, lo vedrai meglio, poi per carità va bene tutto. Bene, arriva un SMS da Siena, dalla provincia di Siena, anzi da Siena proprio, dove sappiamo che è il cuore della lingua italiana, e risolviamo il problema del pendolino. Il pendolino sarebbe l'equivalente, ci dice questo radioascoltatore, del bianco costato. Bene, lo abbiamo risolto. Voglio tornare a Bongiovanni perché voglio chiedergli cos'è questa pera madernassa. La pera madernassa è un frutto che deve il suo nome alla località Madernassa, che è una zona posta ai confini tra comuni di Guavene e Retta d'Alba, dove ebbe origine. Il frutto è lievemente appiattito alla base, ha una buccia di colorazione verde giallastro con delle sfumature che a seconda dell'ambiente di coltivazione assumono una tonalità dal rosso grigio marrone. La polpa è particolarmente croccante e profumata. Il sapore è dolce, leggermente tannico, con un buon tenore zuccherino. È una delle protagoniste della cucina del Roero. Bene, continuiamo questo viaggio e visto che sono tempestato di SMS da Verona e dintorni, tutti parlano di bollito, appunto Veneto, parlano di bollito con la pera, andiamo a Verona, andiamo al ristorante e Locanda Castelvecchio da Armando Bordin. La Locanda Castelvecchio è un po' il punto di riferimento del bollito in quel di Verona. E allora voglio chiedere a Bordin, innanzitutto ci spiega la pera, così diciamo soddisfiamo un po' tutti i nostri radioascoltatori. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. La pera è una salsa povera che si fa a Verona da 500 anni, è molto semplice da fare, L'unica cosa è che richiede un sacco di tempo per la cottura, ma è una salsa che si fa con quattro cose, quattro ingredienti, pane, pepe, brodo e midollo. Pane grattugiato, pane raffermo, e si mette a bollire in un coccio di terracotta e la si lascia andare ore sul fuoco. Più va e più diventa buona, deve pippettare, come si dice da noi. Certo, deve... sì. Bollire. Sì, sì, ma è anche, deve pippettare anche il bollito proprio a un certo, certo, punto. Cioè, certo, deve pippettare. Bordin, rimanga con noi perché ora sentiamo Luciano da Alessandria. Buongiorno Luciano. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Prego. Quando posso vi seguo sempre. Ascolti, volevo solo suggerirle questa cosa, che da noi nel gran bollito la piemontese non può assolutamente mancare la testina, il cotechino e la gallina, che chiaramente vengono cotti a parte dalle altre parti, perché sono più grasse, quindi vanno cotte a parte in un'altra pentola. Beh certo, sicuramente, ognuno deve essere distinta anche per tipologia, certo, per tipologia di carne. Noi non ne abbiamo fatti, diciamo, raccontare dal nostro gran maestro, però sicuramente diciamo che nel bollito, quello tradizionale di cui abbiamo parlato prima, ci sono anche questi chiamati ammennicoli. Bene, grazie a Luciano. Ora voglio andare, siamo sempre in Veneto, e andiamo ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Devo dire che se uno va a verificare il Veneto, vede anche delle varie tra, diciamo, ristoranti o modalità in provincia di Vicenza rispetto a quelle di Treviso, rispetto a quelle di Verona. Allora io vado da un macellaio, da un noto macellaio che è anche ristoratore, da Gianpietro Damini. Buongiorno Gianpietro. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Volevo chiedere qual è, diciamo, la tua composizione dei tagli del bollito che proponi, sia, diciamo, nel negozio e probabilmente sia anche al ristorante. Beh, diciamo tutti quelli che hanno detto fino adesso i colleghi. Lì di massima, io che sono di origine veronese, che adesso sono a Vicenza, i capelli del prete si chiama copertino, capelli del prete, che è la stessa cosa, a parte della spalla, poi la gallina o il cappone, il cotechino, la punta di petto, la pancia, la testina, un po' tutti i tagli classici che hanno detto fino adesso tutti. Ecco Gianpietro, volevo chiederti, cappone o gallina? Dipende dalla stagione, del momento, sotto le festività il cappone, e durante l'anno la gallina. Però vorrei dire una cosa sola, secondo me molto importante, che una trasmissione così, scusi, è scontata, però che andremo a riprendere tra un po' il dietro le quinte del bollito, e quindi che ci vuole sempre un grande macellaio dietro, uno che farà, ti dà la verdura giusta, e quindi un prodotto di base che, detto qui, è scontato, perché da un maestro come Franco Cazzamagli penso che conosca tutti i tagli delle province e tutti i ristoratori che hai con lei, è scontato, però la materia prima di base è importantissima. Poi quindi, allora, arriviamo alla materia di base, e secondo Damini, quale razza si presta meglio al bollito? Non c'è una razza, c'è un produttore, non c'è una razza, può essere emiliana, veneta, toscana, come facciamo noi la Damini di Musil di Stolevatore, ma non c'è una razza, c'è una persona, un valore umano dietro che alleva sta razza. Il prodotto poi finale, non dico, non, ognuno ritiene la razza che vende meglio, più adatta, però non c'è una razza più indicata secondo il mio punto di vista, c'è la persona più indicata a allevare l'animale. Sì, però devo dire, devo fare una parentesi su questo. Guarda strano, pochi in Toscana, cioè, usano la chianina per fare il bollito. Quindi sicuramente, probabilmente ci sono, d'accordo chi alleva, ma d'accordo soprattutto chi alimenta una bestia, perché quello è il fondamentale, ma sicuramente c'è qualcosa che è più portato o meno portato. Diciamo, il fatto che si sia sviluppato in alcune regioni piuttosto che in altre, secondo me il bollito vuol dire, significa anche che c'è la materia prima forse più adatta rispetto ad altre. Bene, rimani con noi, ma sentiamo Stefania da Treviso. Buongiorno Stefania. Sì, buongiorno signor Davide, avevo solo un'informazione. Da tempo io non so mai se la lingua che metto per fare il bollito posso inserirla insieme agli altri pezzi o la devo, come faccio sempre, cucinare a parte, sprecando quello che secondo me potrebbe essere un buon brodo. Guardi, devo dire che senza essere un cuoco le posso rispondere io, è molto semplice, va cotta a parte la lingua, quindi sicuramente. Sì. Sentiamo Lia dalla provincia di Verona, buongiorno Lia. Buongiorno a voi, buongiorno Davide e buongiorno ai radioascoltatori. interessantissima la trasmissione. Io ho una locanda nel cuore della Valpolicella, la locanda di nonna Ida, dove io prevalentemente faccio il carrello, quindi carrello, bolliti e arrosti, nella quale ovviamente, oltre a tutte le i pezzi di carne, i tagli che hanno detto gli altri ristoratori, io aggiungo anche una cosa un po' particolare, che è la tettina, la classica mammella che viene fatta bollire per molte ore, diventando una carne tenerissima, molto buona e molto delicata. La lingua addirittura, io metto anche la lingua salmistrata, nel carrello degli arrosti metto anche la porchetta, il prosciutto, ecco. Bene, bene, d'accordo, sì, sugli arrosti, sì, io sulla tettina devo dire che ho avuto molte, così, molti sms che appunto parlavano della tettina. Armando Bordin, la tettina la mettiamo o no? La mettiamo solo su richiesta, perché non è facile da trovare. Perché la tettina, per essere buona, deve essere di una vacchetta che ha già allattato, altrimenti la tettina è una ghiandola grassa e basta. Invece, se è una femmina che ha già allattato, una bovina che ha già allattato, la tettina la si cuoce nel suo lattino. Ho capito. Quindi una cosa, Bordin, volevo chiedere. Lei ha tenuto duro a Verona per anni, magari anche quando il bollito, diciamo così, non è che fosse passato di moda, 30. Ma non era più di moda, appunto 30. E c'è sempre richiesta per il bollito. E ci sono alti e bassi, ci sono stati alti e bassi. Uno dei momenti peggiori nel periodo della mucca pazza, che fu un disastro, una catastrofe per noi ristoratori che ci occupiamo solamente di carne, e tutto nacque, pensi, da un errore giornalistico, che confusero il midollo spinale col midollo osseo. Sì, certo, c'è stato quel periodo di grande confusione, è vero, è vero. Guardi, non me lo faccia ricordare. E comunque negli anni, diciamo che tra alti e bassi abbiamo sempre avuto un ricambio di clientela giovane che è entrata a far parte degli estimatori del bollito, forse perché ricordavano le nonne, le mamme, le case, e adesso sembra che stia diventando anche una moda. Sì, sì, l'ho premesso all'inizio. Sa che abbiamo sempre queste riscoperte, certo. Noi prima o poi, no? Sì, abbiamo quella della polenta e contemporaneamente quella del bollito. Grazie ad Armando Bordin, grazie. Io voglio tornare da Gianpietro Damini, volevo chiederti questo, sul discorso della tettina. Voi, cioè, la usate la tettina, la vendete, si trova ancora, è facile? No. Mia nonna, noi siamo di generazione macellai, nonni, bisnonni, stamattina leggevo proprio così, no, su internet, bollito e la differenza che c'è tra bollito e quando si mette dentro la carne per fare il brodo buono. È lesso, diciamo che è una distinzione. Mia nonna, 70 anni fa, mi dicevo che ero piccolo, se ti diceva in casa, subito la punta di petto quando l'acqua è fredda, e poi per mangiare il brodo e la carne quando bolle. La tettina una volta c'era, ma adesso è il solito problema, che torniamo al discorso di prima, le fattrici non si mettevano raramente. E quindi una volta da noi c'era sempre, la vendevamo anche, e poi adesso, come diceva il ristoratore prima, è molto difficile da proporre. Ecco, abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo parlato degli odori e dei profumi che si mettono, anche questi sono estremamente importanti. Sì, assolutamente, noi nel nostro mettiamo solo sedano, carote e cipolla. Bene. Qui da noi si usa, mio fratello usa solo quello, e quindi i profumi, gli odori deve dargli la carne, secondo me, certo. Il capone, la punta di petto, e sono quelli, secondo me. Poi, come dice lei, in ogni regione ci sono delle usanze più diverse. Bene, mio nonno, che era un macellatore, un grande macellatore, diceva sempre che la coda non deve mancare, e non tutti mettono la coda, quindi ci sono anche così segreti personali, come, per tornare al discorso lesso bollito, c'è questa, diciamo, come posso dire, informazione, anzi istruzione di didascalica che dà l'Artusi, la differenza appunto su acqua fredda o acqua calda per ottenere o un buon lesso o un buon bollito, ma secondo me è abbastanza teorica. Sentiamo Quinto da Brescia, buongiorno Quinto. Pronto Quinto? Quinto è sparito. Bene, sentiamo Guglielmo da Vicenza. Anche Guglielmo da Vicenza stamattina veramente una giornataccia dal punto di vista telefonico. Sentiamo Antonio da Roma. Signor Davide, buongiorno. Sì. Complimenti della trasmissione per l'affidamento del dettaglio. Dunque, io ho fatto il 20 anni iscritto per la guida all'Express e 10 per lo food, quindi potrei far ridere tutta Italia oppure dare un contributo. A mio avviso la differenza tra lesso e bollito è fondamentale, perché mettendo le carni nell'acqua fredda, queste si estenuano e rilasciano succhi, sapori, eccetera, eccetera, diventa un ottimo brodo, ma la carne, direi a Roma si fa lo spezzatino alla picchia po', ma è immangiabile. Invece il bollito, le carni si mettono quando l'acqua bolle, quindi le carni si chiudono e rimangono saporitissime. Sì, questa è la famosa differenza dell'Artusiana. L'acqua si butta quasi, quella del brodo. Sì, questo hanno preso tutti dall'Artusi, questa è la solita cosa di Artusi. Poi nei fatti credo che pochi seguono, diciamo, questa distinzione, perché credo che pochi vogliono fare un buon bollito e un buon brodo e buttare via il lesso. Quindi secondo me credo che sì, si può fare questa distinzione, appunto riprendendo il grande Pellegrino, però lascia il tempo che trova. Oggi credo che prevalentemente si faccia il bollito e il lesso, insomma si faccia il lesso, si può fare rifatto, perché sempre nell'Artusi c'è questa ricetta che si chiama francesina, non si sa bene perché l'Artusi l'abbia usata, appunto, che il lesso rifatto con cipolle, pomodoro ed altro, che è straordinaria. Grazie Antonio da Roma, grazie comunque dell'intervento. Beh, sentiamo anche da Franca Degoli, che è della Arnaldo, clinica gastronomica di Rubiere, che vedendo il sito Gastronauta ha un sacco di fans. Buongiorno signora Degoli. Buongiorno a lei signor Paolini, piacere di conoscerla. Senta, ma voi da quanti anni fate il bollito? Beh, noi lo facciamo da 75 anni. È sempre lo stesso? I tagli sono sempre lo stessi? Beh, si sono arricchiti nel tempo, perché diciamo inizialmente erano minori, adesso sono stati aggiunti, diciamo, dei tagli, tipo il prosciutto tipo Praga, poi mettiamo la testina, che diciamo è un prodotto molto ricercato, perché attualmente è difficile da trovare, perché i macellari sono sempre meno, gli artigiani, e quindi facciamo fare una lavorazione particolare a questa testina, che per me è un piatto meraviglioso. Beh, non è vero che gli artigiani bravi ce ne sono, e come, noi ne abbiamo già sentiti 3 questa mattina, quindi ci sono ancora. Ma voglio tornare da Massimo Bottura, perché voglio chiedere a lui che tagli usi tu, Massimo, per fare il bollito non bollito. Noi usiamo la testina, la lingua, la guancia, la coda, la pancia e il cotechino. Tutti vanno a cuocere in sottovuoto con un pochettino di sedano, carote, cipolla e una fogliolina d'alloro. E poi vengono serviti appunto in purezza di sapore, con salse che non sono più così invadenti, perché spesso ti ricordi sempre solo le salse, certo, ma delle salse leggerissime, no? Che accompagnano e toccano, quindi la carne diventa protagonista proprio del bollito. Quindi è importante questo piatto di Bottura, perché dimostra anche che si può continuare la tradizione, sì, diciamo innovandola con una cucina completamente nuova, anche dal punto di vista, se vogliamo, culturale e tecnologico. Ma sentiamo Quinto da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Quinto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Io telefono perché volevo un consiglio per preparare un bollito a casa. Naturalmente ci vogliono tante pentole, perché i tagli sono diversi. Io volevo sapere se era possibile alcuni tagli cuocerli insieme, per esempio il cappello da prete con lo scamone e così via. Ecco. Beh, sentiamo Franca Degoli che risponda a questa domanda. Franca? Sì, qua. Ha sentito questa telefonata? Il cappello da prete. No, chiedeva se si possono cuocere assieme tanti pezzi, ma è evidente. No, noi le cuociamo separatamente. Lo zampone viene cotto, certo, in un tegame a parte, come ha detto anche la sera prima, la lingua, e poi dopo per il brodo c'è una cottura sua, poi invece per il bollito abbiamo una pentola per ogni tipo di carne. Sentiamo Guglielmo da Vicenza, un altro radioascoltatore, veloce, che ho pochi minuti ancora, Guglielmo. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno Guglielmo. Dimmi. Volevo dirti, come si sente dall'accento, sono argentino. Ah, anche in Argentina si fa un piatto del tutto equivalente al bollito e vengono utilizzati gli stessi ingredienti, però un ingrediente principale è la patata americana, la patata dolce e la patata normale. E qua in Italia non l'ho mai visto, anzi, mai lo mettono. Come mai? Sentiamo Sergio Motta se mette la patata oppure no. Noi mettiamo sedano, carote e cipolla nel brodo, la patata solo a volte se abbiamo voglia di mangiarle, comunque non è una cosa che fa la differenza secondo me, l'importante appunto sono queste verdure profumate che sono sedano, carote e cipolla. Massimo, volevo chiederti questo, tu lo mangi qualche volta fuori del tuo ristorante un bollito tradizionale, nella tua città o fuori? Mi piace moltissimo il sai, se tu la tradizione è qualcosa di fondamentale, non devi mai dimenticarti da dove vieni, quindi è logico che io tortellini, tortelloni, le rosette, il bollito li mangio sempre, però nel mio ristorante cerco sempre di evolvermi, di cercare di toglierci quella polvere di dosso, di porci quelle domande. Pensa che ieri eravamo da Hermes, quindi il grande Hermes qui in città, a mangiare il gnocco fritto e il bollito, quindi è fondamentale. Comunque ricordi, Davide, che anche la grande industria sta ascoltando quello che stiamo dicendo, perché ci sono già delle case, tipo la KitchenAid, che ha messo una colonna per la casa, ha preparato una colonna per la casa dove c'è il sottovuoto, la bassa temperatura e l'abbattitore. Bene, sì, infatti mi hanno segnalato un bollito diciamo in sottovuoto, a cottura legna, a bassa temperatura, da Enzo De Pra, il famoso ristorante Il Dolada, e c'è un radioascoltatore che dice appunto bollito eccezionale. Sergio Motta, volevo chiederti questo, quanto costa un bollito per quattro persone, tu lo fai con i sette pezzi, quindi come macellaio te lo chiedo? Senz'altro non può mancare lingua, testina, coda, un pezzettino di biancostato, un pezzettino di cappello del prete e, come diceva Franco Cazzamali prima, sui 15-20 euro a testa ci si sta alla grande. Franca Degoli, sicuramente riescono ad avanzarlo, ecco. È vero. Franca Degoli, lei quanto costa al suo tavolo per una persona il bollito? Magari saranno quattro persone che verranno a un tavolo, ecco, più o meno cada uno quanto viene a costare? Cada uno sui 20-23 euro, con tutte le salse comprese. Sì, sì. Quindi siamo quasi, cioè comprare la carne e mangiare al ristorante, su per giù siamo agli stessi livelli o quasi. Bene, io ringrazio Massimo Bottura, Sergio Motta, Franco Degoli. Ho tantissimi sms, è difficile probabilmente leggere, perché tutti danno indicazioni di posti dove andare a mangiare, tutti hanno il loro posto preferito ovviamente, così pure sul sito Il Gastronauta ci sono decine e decine di indicazioni di luoghi, molti di questi non le conosco, mi spiace, magari andrò a visitarli, perché io amo molto il bollito e amo molto anche le salse con cui viene servito. Bene, abbiamo chiuso questa trasmissione, ringrazio Roberto Scaltrini in regia, Gian Gabriel Lombardo in redazione, vi do appuntamento domani con Il Riposo del Guerriero e ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05 con La Pillola. A presto!